Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono affezionato a un'immagine per cui i dilettanti hanno costruito l'arca di Noè mentre i professionisti hanno fatto il Titanic. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, meglio fare l'arca di Noè ed essere dilettanti che dei professionisti e poi andare a picco, dice così Renzi a proposito di riforme, dei risultati, insomma, del suo governo. Resteremo in parte sulla politica, ma gli argomenti sono soprattutto altri questa sera. A parte la riforma, è stata votata al Senato, la riforma costituzionale, poi passa alla Camera, e stasera c'è il Consiglio dei Ministri dove si discuterà invece delle norme che dovrebbero dare una stretta sui fannulloni nella pubblica amministrazione. Poi ci aggiorneremo su questo, però è stata una giornata particolare perché connotata, diciamo, in modo preponderante dalla polemica su Sarri, l'allenatore del Napoli, che sapete ieri nel dopo partita, dopo Coppa Italia, con l'Inter ha attaccato l'allenatore dell'Inter, Mancini, e gli avrebbe detto frocio finocchio, e qui è scoppiata la bufera, rischia anche delle sanzioni, vediamo se sono così pesanti come prefigurava all'inizio oggi, oppure più leggere con una giustificazione un po' particolare. Voi cosa pensate di questa vicenda? Innanzitutto, sono termini offensivi secondo voi? Frocio, finocchio, lì si deve usare in senso dispregiativo per dire gay in un modo appunto così con disprezzo? E secondo voi, fra l'altro, che cosa avrebbe dovuto rispondere o fare Mancini? Cioè, nel senso, andare effettivamente davanti alle telecamere a dire a dire queste cose, oppure l'avrebbe dovuto tenere negli spogliatoi, così come dice qualche vecchio allenatore, vecchio stampo, bisognava fare? E tra l'altro pare che la giustizia sportiva abbia intenzione sì di sanzionarlo, ma dicendo che la sua offesa non era omofoba, quindi contro gli omosessuali, contro i gay, perché Mancini, non essendo gay, non si deve sentire offeso. Che vi sembra anche di questa arzigogolata spiegazione che, secondo indiscrezioni, sarebbe presa in esame domani per dare risposte sulle sanzioni? Cioè, secondo queste indiscrezioni, sarà ritenuta dalla giustizia sportiva non un'offesa omofoba, frocio, finocchio, solo perché Mancini non è gay. Se fosse stato gay, allora doveva offendersi. Insomma, non si capisce bene dove voglia andare a parare. Vorrei però capire quali sono le vostre opinioni, sempre con il numero per i messaggi SMS, che è 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, e poi, lo sapete, è lì per voi. Se va a sentire la pagina Facebook di Effetto Notte, giorno e notte per voi, a qualsiasi latitudine siate, da qualsiasi latitudine stiate ascoltando Effetto Notte. Lo sapete, da tutto il mondo ascoltano per avere un quadro aggiornato delle notizie più importanti della settimana, della giornata, a fine giornata. Parleremo anche delle banche, di questo caos, di molti che sono spaventati, che cosa bisogna fare, che cosa sta succedendo. Ne parleremo con un esperto del Sole 24 Ore che ha, diciamo, una usuale chiarezza. Partiamo con i titoli. Borse, nuova giornata nerissima, mercati a picco, Milano perde il 5%, Monte dei Paschi in picchiata. Le tensioni da Bruxelles e Roma, Juncker ricuce con Roma, solo parole virili, dice, ma nessuna crisi. Riforme costituzionali, il Senato approva con 180 sì e 112 no, la parola passa alla Camera per l'approvazione definitiva. E Renzi ai parlamentari dice, il Paese ci vi deve gratitudine, intanto emergono critiche alla nomina del renziano Carrai alla sicurezza informatica. Pubblica amministrazione, questa sera nel Consiglio dei Ministri, stretta sui fannulloni. Insulti omofobi, bufera sul tecnico del Napoli Sarri, rischia un lungo stop. Cinema, l'addio in festa a Ettore Scola, regista da film indimenticabili, celebrazione alla Casa del Cinema, da domani la Camera Ardente. Per il calcio, per la Coppa Italia, in campo Lazio-Juventus, per il momento 0-0. Partiamo quindi dalla giornata appunto verissima, da toni estremamente cupi, coperrimi per i mercati finanziari, listini in rosso con crollo del petrolio, timori sulla crescita da parte del Fondo Monetario Internazionale, tensioni sulle banche con Piazza Affari maglia nera che chiude a meno 4,83%. E di questa caotica e difficile situazione, vi dicevo, parleremo tra pochissimo, anche per capire se vi sia o meno da preoccuparsi. E sui riflessi delle turbulenze finanziarie sul nostro sistema bancario sentiamo cosa ha detto il ministro dell'Economia Padoan. Oggi, come qualcuno di voi avrà notato, è una giornata di turbolenza sui mercati finanziari, turbolenza che riflette gravi impulsi di instabilità provenienti dal sistema internazionale, sia di natura economica che di natura politica. Malgrado questa turbolenza, la solidità di fondo del sistema italiano, che tra l'altro continua ad essere considerato, e questo bisognerebbe dirlo con più forza, dagli investitori internazionali uno dei posti dove è più attraente investire, questo vorrà dire che c'è qualcosa di solido nel sistema. Malgrado la turbolenza, il sistema va avanti. E queste vendite non sarebbero giustificate, dicono da Davos economisti addetti ai lavori. Da Davos, dove si svolge il World Economic Forum, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha sottolineato che le vendite che stanno colpendo i titoli bancari in questo periodo non sono giustificate. Poi ha invitato a non considerare le sofferenze lorde, ma di depurarle degli accantonamenti fatti, oltre a ricordare che il prezzo degli immobili è sceso del 6% e oggi in qualche caso stanno aumentando. Si è fatto eco il gestore di Algebris, Davide Serra, secondo cui siamo di fronte a una reazione eccessiva, quella della borsa, che deriva un po' dall'instabilità dei mercati finanziari globali, ma anche dal panico a livello retail che è stato creato con l'intervento sulle quattro piccole banche a novembre. Per questo motivo, secondo Serra, è necessario ora intervenire per ripristinare la fiducia nelle banche e le autorità di controllo devono essere più attive. Secondo Edmund Fels, Nobel per l'economia, l'Italia ha troppo debito e paga un'assenza di leadership. Tutti però sono convinti che i veri problemi sono altrove, non in Italia. Rallentamento cinese, volatilità dei mercati e del prezzo del petrolio, rischi geopolitici, società energetiche americane a rischio fallimento. Vittorio da Roma, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Davos. E poi le tensioni tra Bruxelles e Roma che abbiamo visto in questi giorni con botta e risposta tra Juncker e Renzi. Bene, oggi Juncker, Presidente della Commissione Europea, cerca di ricucire con Roma, dice solo parole virili, maschie. Oggi è la giornata delle cose maschie, tra Frocio Finocchio e parole maschie di Juncker, che si sarebbe aspettato, come dire, cose da uomini qui a Bruxelles, ma nessuna crisi, dice, per le istituzioni europee e l'Italia. Sentiamolo quando dice parole maschie e virili in francese. Il n'y a pas de problème entre le gouvernement italien et la Commission, sauf un débat qui parfois est conduit avec des propos mâles et virils. Mal e virili, insomma, c'è nessun problema in realtà, parole maschi e virili. Passiamo invece adesso a parlare delle riforme in Italia. Il Senato ha approvato il disegno di legge con le riforme costituzionali con 180 sì e 112 no questa sera, è un astenuto. La parola adesso passa alla Camera per l'approvazione definitiva. Sentiamo in proposito Renzi cosa ha detto oggi sulle riforme parlamentari. Avete scritto una pagina di storia, senatrici e senatori. Adesso però vi propongo di continuare e per i prossimi 2 anni di scrivere la pagina di un futuro possibile per un paese che ha straordinario bisogno di politica. Viva l'Italia! E si prosegue con nuovi provvedimenti, dovrebbe infatti essere in corso in questi minuti, non so se è già iniziato il Consiglio dei Ministri, per una stretta, come aveva annunciato già nei giorni scorsi, suscitando anche un certo dibattito, Renzi, sulle norme che colpiscono i fannulloni nella pubblica amministrazione. Ma su questo ci aggiorna Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo! Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Diciamo subito che il governo è un po' in ritardo, il Consiglio dei Ministri, Roberta, non è ancora iniziato, ma inevitabilmente si andrà verso il varo dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione. Ricordiamo, sono 10 più il decreto contro i cosiddetti furbetti del cartellino. Ricordo brevemente i contenuti. Sì. Il dipendente pubblico che viene colto in flagranza a falsificare la sua presenza in servizio, come chi striscia il badge e poi esce, lo abbiamo visto più volte nei famosi filmati di Sanremo, ma anche di altri casi arrivati alle cronache, verrà punito allora entro 48 ore con la sospensione dall'incarico e dalla retribuzione. Il decreto prevede quindi un iter accelerato per il suo eventuale allontanamento, quindi entro un mese il procedimento per il licenziamento dovrà chiudersi, ora invece può durare anche 120 giorni e poi un impegno più gravoso viene chiesto anche ai dirigenti, che dovranno vigilare maggiormente su questi casi, e anche qui potrebbe scattare, in mancanza di di un maggiore controllo, anche qui potrebbe scattare, Roberta, il licenziamento. Grazie Vincenzo Miglietta, e poi capiremo quale sarà il prodotto finale di questo Consiglio dei Ministri. Intanto la ministra Maria Elena Boschi oggi ha risposto a un'interrogazione in Parlamento di Sinistra Italiana sull'eventuale nomina del renziano Marco Carrai nel settore della sicurezza informatica. Nella gestione della sicurezza l'unica autorità politica riconosciuta è Marco Minniti, dice la ministra, sentiamola. Rassicuro quindi l'onorevole interrogante sul fatto che non è prevista alcuna forma di partecipazione di strutture private, anzi ribadiamo che l'unica autorità politica che è preposta alla gestione dei servizi di sicurezza è stato, è e sarà il senatore Marco Minniti, che è legato al Presidente del Consiglio e a tutto il Governo da rapporto di piena stima e fiducia. Ovviamente il Governo, così come le altre istituzioni, ha facoltà di avvalersi di consulenze di carattere tecnico, scegliendo tra vari profili. Laddove il Governo decidesse, se decidesse di avvalersi di altre figure di consulenza tecnica, gli onorevoli interroganti hanno tutti gli strumenti consentiti dalla legge e dai regolamenti per chiedere ulteriori informazioni e il Governo provvederà a rispondere celermente. Unioni Civili sempre al vaglio, il dibattito più acceso, mentre nel PD si sta cercando una mediazione sul disegno di legge Cirinnà. È intervenuto sul tema anche il leader di Forza Italia Berlusconi questa sera alla presentazione di un libro, che ha detto: per Forza Italia libertà di voto, e poi ha detto: di fronte a queste situazioni credo che dobbiamo lasciare il diritto alle persone di fare come credono e di seguire la propria strada e di avere uno Stato che non si oppone, l'ha detto dopo aver ascoltato, dice, la testimonianza di una madre omosessuale. E allora andiamo agli insulti omofobi. Bufera, vi dicevo, sul tecnico del Napoli Sarri, che, come ha raccontato l'allenatore dell'Inter Mancini, ieri alla fine della partita di Coppa Italia, che ha visto la vittoria dei neroazzurri, gli avrebbe detto, Sarri a Mancini, frocio finocchio, rischia un lungo stop, però sembra che invece la sanzione possa essere minore in base a una logica un po' particolare che vi dicevo all'inizio. Cosa pensate di tutta questa vicenda? 349-238-6666 per i messaggi e oppure la pagina Facebook di Effetto Note per le vostre opinioni. Immigrazione. Il Presidente della Commissione europea Juncker ha chiesto al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk un prolungamento ad hoc del vertice europeo straordinario di febbraio, già previsto, centrato sulla Gran Bretagna, per affrontare in modo approfondito il problema dei rifugiati, e non è un ulteriore vertice come erroneamente indicato in una traduzione simultanea da diversi media, è l'allungamento di questo vertice già previsto. Intanto l'Austria ha annunciato l'introduzione di un tetto agli ingressi dei migranti. Cronaca italiana, una clochard romena di 35 anni ha partorito oggi per strada vicino San Pietro, aiutata da una poliziotta. Il Papa le dà ospitalità, dice se lo desidera avrà un alloggio presso le suore di Madre Teresa che si trova a Primavalle, dice lei e la piccola potranno vivere per un anno in questo alloggio. Al momento comunque stanno bene. E poi l'omicidio Macchi, la Procura Generale di Milano è pronta a disporre la riesumazione della salma di Lidia Macchi, la studentessa uccisa e trovata a cadavere in un bosco nel Varesotto 29 anni fa, per cercare eventuali tracce di DNA da comparare con il campione prelevato ieri a Stefano Binda, l'ex compagno di liceo arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio, che ieri è stato interrogato. Una giovane pakistana rifiuta un matrimonio combinato vicino Udine con un connazionale di 40 anni più vecchio di lei, sale sul tetto di casa per richiamare l'attenzione e ottenere aiuto che ha ottenuto, per fortuna, arrivata la polizia. Adesso sono i servizi sociali che si stanno occupando di lei per trovarle una sistemazione protetta ed evitare il suo ritorno a casa, quindi questo matrimonio forzato con un uomo di 40 anni più grande di lei. Clima: il 2015 è stato l'anno più caldo mai registrato dal 1880, cioè da quando si ha disponibilità di dati, il 2015, la notizia finora era ufficiosa, invece è ufficiale, certificata dalla NASA e dall'Agenzia Federale Americana per la Meteorologia. Parliamo di cinema. Il cinema italiano dice addio a Ettore Scola, grandissimo maestro, autore di film indimenticabili, scomparso ieri sera. A Roma sarà aperta domani alle 10.30 la camera mortuaria del regista, allestita alla Casa del Cinema di Villa Borghese. E adesso, per chiudere, abbiamo il calcio. Vediamo intanto Lazio-Juventus in Coppa Italia. Sembra che sia sempre 0-0 la partita. Aspettiamo Dario Ricci per aggiornamenti. Intanto vedo i vostri messaggi che riguardano in qualche modo il calcio, ma in realtà è tutta una questione di mentalità e di cultura. Silvia da Roma al 349-238-6666 dice: come si può pretendere che i tifosi si comportino in modo civile durante le partite quando gli stessi allenatori trascendono e usano tra loro termini offensivi? Il buon esempio dovrebbe partire proprio da loro. Abbiamo Dario Ricci, eccolo qui Dario. Invece come sta andando tra Lazio e Juventus? È tutto tranquillo almeno? Beh, finora sì, speriamo anche in un dopo partita un po' più tranquillo rispetto a quello di ieri, Roberta. Trentesimo di gioco all'Olimpico, risultato ancora sullo 0-0, Juventus vicino al vantaggio 5 minuti fa con una bella conclusione di Zaza, ma bravissimo Berisha a salvare il risultato per la Lazio, quindi ancora 0-0 all'Olimpico tra Lazio e Juventus. Calma piatta quindi, grazie Darici, poi ci aggiorniamo più tardi. Per lo sport aggiungerei questa notizia di pallanuoto del Sette Rosa, le ragazze allenate da Fabio Conte hanno battuto la Grecia agli Europei di Belgrado 10-4 e domani in semifinale affronteranno l'Ungheria. Qual è la notizia extra di oggi? Il nuovo record per un numero primo più lungo. Questo è, diciamo, più una notizia per matematici. Scoperto il nuovo numero primo più lungo al mondo, divisibile solo per se stesso e per uno, è composto da oltre 22 milioni di cifre, ben 5 milioni in più rispetto all'ormai ex detentore del record del 2013. Si chiama questo numero con una sigla M74207281, può essere calcolato moltiplicando il numero 2 per se stesso per ben 74.207.281 volte, provateci se volete, e sottraendo poi uno al risultato. Lo ha scoperto Curtis Cooper, matematico dell'Università del Missouri Centrale, noto in tutto il mondo per aver scoperto altri tre numeri primi da record. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Oh, qui c'è qualcuno che ha preso un abbaglio, ma un super abbaglio. Carmine da Rocca, scusami Carmine, dici l'allenatrice del Napoli Sarla ha torto, è una razzista, un'omofoba, deve essere squalificata almeno 6 mesi, forza Inter. Sarebbe stato un passo ulteriore avere un'allenatrice del Napoli, caspita, altro che mentalità retriva. Non è questo Carmine, forse hai sentito un'altra trasmissione o sei in un altro mondo. Si tratta dell'allenatore maschio, vero maschio, Sarri del Napoli contro Mancini. Ha detto ieri questo battibecco e questo diverbio, se è un frocio, se è un finocchio. Vi chiedevo appunto se è un'offesa secondo voi, e cosa ne pensate di tutta questa faccenda complessivamente, anche del fatto che le sanzioni previste dovrebbero essere un po' più leggere di quelle pronosticate oggi di 4 mesi di stop per Sarri da parte della giustizia sportiva. Perché la giustificazione sarebbe questa: siccome Mancini non è in realtà gay, allora non deve offendersi, si dice frocio, finocchio. Secondo voi, insomma, che senso ha questa spiegazione? Tra poco invece daremo altre spiegazioni su quello che sta succedendo nei mercati finanziari, però intanto volevo leggere qualche altro vostro messaggio, diciamo più centrato, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Per esempio... Enea scrive: e basta con queste storie, se dice uno che è gay tutto bene, se gli dici frocio, che poi è la stessa cosa, sei un omofobo, poi se dici frocio è uno che non è gay, casca il mondo, dice Enea. Giorgio dice: bello strabismo ragionare sull'ipotetica offesa a Mancini quando invece ha offeso chi è omosessuale utilizzando il termine a mo' di offesa, ha offeso milioni di persone volendo essere precisi, poi contestualizzando va punito ma in maniera saggia, non ha solo detto una parolaccia ma non ha neppure fatto una strage, credo che si sia punito solo pronunciando quelle parole. Continuate con i vostri messaggi, adesso vi ricordo, visto che qualcuno magari non ha acceso puntualmente alle 21 su Effetto Notte, le notizie più importanti del giorno. Crollano i mercati, Milano a fondo con le banche, giù il petrolio, sulle banche un vertice Renzi-Padoan-Visco. Riforme, via libera dal Senato, riforma costituzionale, adesso passerà alla Camera. Renzi dice la politica riprende finalmente il suo posto e ci sono polemiche sull'eventuale nomina del renziano Carrai per la sicurezza informatica. E poi Juncker, presidente della Commissione europea, che ricuce con Roma e dice soltanto tra noi, tra me e Renzi, parole maschi, virili, ma nessuna vera crisi. Emendamento Cattodem sulle unioni civili, inutile in affitto, reato anche all'estero, questa è con 12 anni di carcere, questa possibile modifica al disegno di legge Cirinà, vedremo come va a finire anche in quel senso. E poi una clochard che partorisce per strada vicino San Pietro, aiutata da una poliziotta, il Papa le offre ospitalità per un anno. Bufera su Sarri per insulti omofobi, rischia un lungo stop. Adesso invece ho qui con me in studio l'onore di avere qui direttamente in studio, calato dal terzo piano del Sole 24 Ore, Moria Longo. Ciao, l'onore è tutto mio. Buonasera a tutti. Grazie, reciproco. E che ha la fama di essere di una chiarezza sgomentante, addirittura quando si parla. Speriamo di non smentirci stasera proprio. Quando si parla di cose complesse, di economia, di finanza. Allora, oggi, caro Moria, abbiamo visto tutti che di nuovo mercati a picco, segno rossissimo, nerissimo, come possiamo dire, le borse che affondano, Milano che chiude con un meno 5%, l'Europa che brucia 233 miliardi, che è un'espressione che si continua a usare, questa del bruciare dei miliardi, qualche volta l'ho fatta spiegare qui a effetto note, però secondo me diciamo che giova ogni tanto anche rispiegare che cosa significa. Che sta succedendo col petrolio basso, la Cina che non cresce quanto dovrebbe, il Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, da Davos ha lanciato questo allarme, mi sa che le prospettive di crescita globale sono più basse di quanto ci aspettassimo. È abbastanza probabile che questo accada. Allora, sulle borse si stanno addensando una serie di nubi che c'erano già nel 2015, ma che improvvisamente adesso il mondo sta scoprendo improvvisamente. La prima è la Cina. La Cina è una grandissima economia che ha trainato la crescita globale per gli ultimi 10 anni, anche di più. Però è un'economia che è cresciuta in maniera molto squilibrata, ha un gigantesco debito non pubblico come ce l'abbiamo noi in Italia, ma principalmente privato. Le imprese cinesi si sono indebitate in maniera enorme, hanno un debito pari al 160% del PIL cinese, quindi un debito gigantesco, tra l'altro tenuto in parte dal sistema bancario, in parte dal sistema bancario cosiddetto ombra, quindi da finanziari, da un mondo molto opaco. Questo debito inizia a preoccupare il mondo, soprattutto perché la Cina sta cercando di fare una transizione molto complicata da un'economia pianificata, un'economia, non saprete finire, di mercato, paramercato, qualcosa del genere, quindi una transizione molto difficile in un paese iperindebitato con giganteschi squilibri, e questo sta pesando sulla borsa cinese, sullo yuan che ha pressioni al ribasso, ci sono forti deflussi di capitali dalla Cina e questo pesa in Cina. Perché la Cina pesa in tutto il mondo? Non soltanto perché tutti noi esportiamo in Cina e la Cina è un grande partner commerciale di tutti, ma soprattutto perché la Cina è il più grande consumatore di materie prime al mondo, dato che è la manifattura del mondo. Circa metà del rame mondiale, se non ricordo male, finisce in Cina, consuma tanto petrolio. Ovviamente se l'economia cinese rallenta, consuma meno petrolio, meno materie prime, quindi c'è minor domanda, e questo è uno dei motivi per cui il petrolio e le materie prime stanno collassando. Non è l'unico motivo, ma è uno dei principali, uno dei motivi fondamentali. Se collassa il petrolio, si hanno problemi in altri paesi, cioè nei paesi esportatori di petrolio. Per esempio la Russia, per esempio il Brasile, per esempio i paesi arabi ovviamente. Tutti i paesi che esportano petrolio ovviamente hanno entrate molto minori. Il problema qual è? Che anche qui ci sono paesi, soprattutto aziende petrolifere, iperindebitate. Per esempio in Russia ci sono aziende molto indebitate, tra l'altro indebitate in valuta estera, cioè in dollari, quindi il crollo del rublo, nel caso delle aziende russe, crea un problema di debito, di sostenibilità del debito, perché sono indebitate non soltanto in rubli ma anche in dollari. Crea un problema nelle aziende americane. In America c'è una forte settore industriale degli Stati Uniti che estrae petrolio attraverso la frantumazione delle rocce. Ci sono molte aziende che lo fanno, ma sono molto indebitate. Allora, il loro bilancio era sostenibile se il petrolio fosse rimasto intorno ai $100 al barile, ma adesso che è sotto i 30 e sta continuando a scendere, per loro diventa insostenibile rimborsare i debiti, perché hanno minori entrate, ma i debiti purtroppo quelli restano sempre uguali. Un puzzle incredibile stai costruendo, ecco, per dire quindi, quanto siamo tutti interconnessi. No? Esattamente. Ovviamente se soffrono i paesi emergenti, il Brasile è già in recessione, la Russia è già in recessione e così via, soffriamo anche noi che in quei paesi esportiamo, per cui noi che dovremmo essere felici per il petrolio basso, perché alla pompa di benzina dovremmo pagare meno benzina, ma la paghiamo effettivamente meno, scusa, piccola parentesi. Beh, noi abbiamo talmente tante tasse che questo frena molto, scende molto più il petrolio della benzina, un po' è calata ma non così tanto. Infatti. Tra l'altro noi che siamo in euro compriamo il petrolio in dollari, quindi abbiamo anche un effetto cambio che in questo momento riduce il calo della benzina. Tutto questo pesa sulle borse, pesa tantissimo. In Italia adesso è esplosa un'altra bomba che è tutta italiana, quella delle banche. Le banche hanno nei bilanci 200 miliardi di crediti in sofferenza, ma se si contano tutti i crediti inesigibili e deteriorati sono 350 miliardi, sono tantissimi. Le banche le hanno già svalutate molto, attualmente le hanno svalutate circa il 60%, quindi vuol dire che di questi 200 miliardi le perdite per il 60% le hanno già prese nei bilanci degli anni passati. Il mercato però teme che debbano essere questi crediti svalutati ancora, quindi che ci siano nuove perdite potenziali nei bilanci delle banche, soprattutto nei bilanci delle banche più esposte sui crediti in sofferenza, per esempio il Monte dei Paschi, che di fatto è quello che sta collassando in borsa. Pensate che il 31% dei crediti, cioè sul totale crediti del Monte dei Paschi, il 31% è inesigibile, quindi è una quota altissima. La media italiana è il 18%. Terzo, scusa Moria, allora tutto questo quadro funesto e appunto di interconnessioni, di conseguenze a domino, ma i privati cittadini, no, che guardano magari a, diciamo, questi andamenti dei mercati con preoccupazione, che cosa devono fare? Effettivamente si devono preoccupare? Devono aspettare, insomma, che questa buriana passi? Che... Allora, speriamo tutti che la buriana passi, questo è ovvio, lo spero anch'io. Il problema qual è? Finché il mondo, cioè il problema resta nel mondo della finanza, ai cittadini può anche importare poco. Il problema è che i canali di contagio da un mercato finanziario che è mastodontico, il mercato finanziario a livello globale è molto, molte volte più grande del PIL del mondo intero, quindi c'è molta più finanza che mondo reale, questo è il problema. Per cui i capricci e le speculazioni, i problemi del mondo finanziario, purtroppo abbiamo visto più volte, si tramutano poi, si trasformano poi, hanno un impatto poi anche sull'economia reale, quindi sulla vita di tutti i giorni. Ovviamente non bastano 20 giorni di crollo di borse per avere un impatto sull'economia. Però se la turbolenza dovesse restare, potrebbe averlo. Faccio soltanto un esempio. Le famiglie americane hanno 20.000 miliardi di dollari investiti in borsa, sia direttamente sia indirettamente. Allora Wall Street ha perso il 10% da inizio anno, vuol dire che le famiglie americane hanno perso il 10% all'interno di questi 20.000 miliardi di dollari. Per cui c'è un effetto impoverimento delle famiglie, soprattutto in un paese come quello statunitense che è molto finanziarizzato. Se le famiglie sono più povere, consumano meno, quindi il PIL tira di meno. Quindi c'è tutto un effetto a trascinamento dal mondo finanziario, che è un mondo, diciamo, fatto più di algoritmi, un mondo che sembra fuori dal mondo, ma poi alla fine questo mondo un po' onirico ha delle conseguenze dirette, concrete su di noi. Senti, e proprio per stare nel nostro piccolo orticello, che non è così piccolo perché abbiamo visto come siamo collegati a tutto, in Italia che cosa, come risparmiatori, che cosa dobbiamo pensare? Allora, i mercati finanziari italiani seguono quello che avviene nel resto del mondo. Adesso però c'è un problema tutto italiano delle banche, appunto. Questo problema delle banche che crea preoccupazioni, perché come tu sai quest'anno è entrata in vigore questa nuova normativa, si chiama bail-in, che prevede che se una banca finisse in crisi, a pagare per il salvataggio non sarebbe più lo Stato o qualcun altro, ma sarebbero gli azionisti, poi gli obbligazionisti subordinati, poi gli obbligazionisti senior e soltanto se il buco fosse maggiore anche i correntisti sopra i 100.000 euro. Allora spezzo subito una lancia a favore dei correntisti italiani. Dato che le banche italiane hanno tante obbligazioni in essere nel mercato, anche nel caso peggiore, secondo tutte le simulazioni, i correntisti resterebbero assolutamente al sicuro. Secondo le simulazioni fatte per esempio da Prometeia sulle prime 13 banche, se anche una di queste banche avesse un buco gigantesco, comunque secondo le normative, che comunque hanno dei paletti, i correntisti potrebbero stare tranquilli, perché ci sono tante obbligazioni che verrebbero azzerate prima dei conti correnti. Quindi i correntisti italiani, secondo me, possono anche dormire, magari un po' agitati, ma non più di tanto. Il problema sono gli azionisti, che sono i primi a perdere, per questo che la bufera è soprattutto in borsa. E poi il problema sono anche gli obbligazionisti cosiddetti subordinati, quelli che sono stati bruciati dalle vicende delle quattro banche, Banca Barca, Banca Popolare Etruria e così via. Questi rischiano ovviamente che se succedesse qualcosa potrebbero subire delle perdite. Non è un caso, per esempio nel Monte Paschi crollano le azioni, crollano anche i bond subordinati, cioè proprio questa categoria di titoli che nel caso sciagurato in cui dovesse succedere qualcosa sarebbero i primi ad essere colpiti. Ovviamente non si può sapere se qualcosa sta succedendo, se è solo speculazione. Certo è che le banche italiane hanno questo grosso problema dei crediti deteriorati che crea incertezza. L'incertezza va a colpire soprattutto appunto la borsa e le obbligazioni subordinate. Grazie Moria Longo, sei stato chiarissimo. Restiamo con gli occhi estremamente vigili, che altro fare. Adesso ripeti tutto, vediamo se sono stato così chiaro. No, non posso ripetere dietro le quinte, perché adesso abbiamo una pausa, non posso ripetere tutto quello che hai detto. Era tanto, è chiaro e molto articolato. Grazie, mille, ciao. Buon lavoro, ciao. Noi prima di questa piccola pausa di ricreazione vogliamo aggiornarci ancora sui temi che tratterò poi dopo, che è quello appunto della bufera. Questa è la buriana sui mercati, invece la bufera su Sarri, allenatore del Napoli che ha dato del frocio finocchio a Mancini. Che ne pensate di tutta questa vicenda? Vedo ancora i vostri messaggi, molti al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco sentiremo il presidente degli allenatori italiani Olivieri e anche la responsabile del PD per il calcio Laura Coccia. Intanto Roberto scrive: credo che probabilmente sia una piccola goccia questa degli insulti che non fa traboccare il vaso. E poi invece Alberto: sui campi di calcio se ne sono viste altro che queste, tanto rumore per nulla. Allora tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E Roberta Giordano sempre con voi a darvi notizie fino alle 22, ad approfondire alcuni temi particolari della giornata con gli ospiti. Infatti tra poco converserò con Laura Coccia, responsabile del PD per il calcio, e con il presidente degli allenatori italiani Olivieri, sempre su questa bufera scoppiata dopo le parole forti di ieri del tecnico del Napoli Sarri contro Mancini dopo la partita Napoli-Inter, in cui ha vinto l'Inter e passa così alla semifinale in Coppa Italia, in cui ha detto in questo dopo partita Sarri a Mancini: se un frocio, se un finocchio. Mancini allora l'ha detto anche davanti alle telecamere, ai microfoni, ha denunciato questa cosa e ha detto, si è sfogato insomma, dicendo: ah, se mi dice così, per carità, io sono anche orgoglioso se lui si considera un uomo. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per le vostre opinioni, o come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio leggo Elena che dice: Mancini ha fatto bene, c'è una differenza tra dire a qualcuno se un cretino e dire se un frocio, non c'è bisogno di spiegare la differenza, spero. E poi invece Falcone dice: il calcio è un mondo a sé, lasciamo che se la vedano fra addetti ai lavori e tifosi, c'è gente che muore, che viene privata della dignità, che subisce quotidiane ingiustizie e noi ci scanniamo per il calcio. È vero che ogni popolo ha i governi che si merita, ma non vorrei dover arrivare a pensare che nel nostro paese abbiamo invece addirittura un governo migliore di quello che meritiamo. E poi invece scrive Roberto: credo che probabilmente sia una piccola goccia che non fa traboccare il vaso. Questa era la frase di prima. Cristiano dice: Mancini in ogni caso ha fatto bene a denunciare il tutto, in definitiva è uno spirito ludico, parlerei di transagonistica. Ilaria dice: ah, il calcio, specchio dell'italica inciviltà, non credo che Sarri volesse discriminare, solo l'ennesimo cretino che usa connotazioni sessuali come fossero insulti, e che rimanga tutto tra noi, dice, dicendo i panni sporchi secondo loro, dovendo rimanere in campo insomma, o negli spogliatoi, sembra che non possano poi essere invece detti espressamente alla pubblica opinione. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo, prima di passare ai prossimi ospiti, quali sono i titoli principali della giornata. Le banche, le borse, nuova giornata nerissima, mercati a picco, Milano perde il 5%, Monte dei Paschi impicchiata. Le tensioni fra Bruxelles e Roma, Juncker ricuce con Roma, solo parole virili ma nessuna crisi, dice Juncker. Riforme costituzionali, il Senato approva con 180 sì, 112 no, la parola passa alla Camera per l'approvazione definitiva. Renzi e parlamentari, dice, il Paese vi deve gratitudine. Intanto emergono critiche alla eventuale nomina del renziano Carrai alla sicurezza informatica. Pubblica amministrazione, questa sera in Consiglio dei Ministri stretta sui fannulloni. Insulti omofobi, ne parleremo tra poco. Bufera sul tecnico del Napoli Sarri, rischia un lungo stop. Cinema, l'addio in festa a Ettore Scola, regista di film indimenticabili. Celebrazione alla Casa del Cinema, da domani la Camera Ardente. Per il calcio c'è la Coppa Italia anche questa sera e siamo sempre tra Juventus e Lazio. Lazio-Juventus 0-0. Adesso parliamo allora di questa polemica innescata dai fatti seguiti ieri alla partita Napoli-Inter di Coppa Italia, in cui l'Inter ha battuto il Napoli, quindi all'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Alla fine della partita cosa è successo? Si sono accesi gli animi e c'è stato scaturito questo violento battibecco tra l'allenatore del Napoli Sarri e l'allenatore dell'Inter Mancini, un diverbio nato, pare, da quello che dice Mancini, dalla richiesta di spiegazioni del nero-azzurro sulla durata del recupero che ha portato l'allenatore partenopeo Sarri a utilizzare poi delle parole forti, per qualcuno dei veri e propri insulti, insomma dipende un po' dai punti di vista. Uno scambio di termini diciamo abbastanza acceso. Sentiamo che cosa ha detto poi Mancini davanti ai microfoni e alle telecamere. Che è un razzista, e uomini come lui non possono stare nel calcio. Io mi sono alzato solo per chiedere al quinto uomo, al quarto uomo, per come mai 5 minuti di recupero. E lui ha iniziato a inveire contro di me e poi a un certo punto urlando, dicendo frocio, finocchio. Cioè, io sono orgoglioso di esserlo, se lui è un uomo. Ma le persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Si deve vergognare, 60 anni. Il quarto uomo era lì, ha sentito, non ha detto niente. Questo è lo sfogo di Mancini. Poi Sarri ha dato la sua spiegazione. Ma io mi ero innervosito per la decisione su Dries Mertens, non ce l'aveva assolutamente un Mancini. Ho visto che lui si lamentava per l'entità del recupero, a me sembrava poco, però sono cose da campo che dovrebbero finire in campo. A me i vecchi mi hanno sempre detto che quello che succede in campo finisce lì, e ci si dà la mano e finisce tutto. Quindi cose normali da campo era meglio se non succedevano, però sono le classi litigate da campo. Sono intervenuti molti, tantissime reazioni ci sono state, il web è impazzito proprio con chi dava ragione a Sarri, chi dava ragione a Mancini, reazioni politiche anche, con tra l'altro anche le associazioni Arcighe che ha detto venga allora, dimostri Sarri, venga in piazza con noi il 23 che c'è la grande manifestazione in varie piazze italiane pro unioni civili. Malagò, il presidente del CONI, però ha detto se quelle frasi sono state dette non capisco la giustificazione di Sarri, cioè che quelle cose devono rimanere in campo. Sarri è intelligente, sa che non si possono circoscrivere quelle cose a un discorso di campo, altrimenti non si finisce mai. Allora coinvolgo Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio. Buonasera Olivieri. Buonasera. Qual è il suo commento, visto che lei è presidente degli allenatori, due allenatori che si sono scontrati in questo modo e uno che dice, mi ha detto frocio finocchio, anzi io sono orgoglioso, però se lui è un uomo dice, allora preferisco essere un frocio finocchio anche se sono uomini comunque l'uno e l'altro, e Sarri che si è giustificato così. Ma è uno scontro tra allenatori a fine gara, laddove la tensione è massima e laddove si può sbagliare. Sarri ha sbagliato, usando un'espressione che fa parte di una cultura antica, anche la mia, nella quale, all'interno della quale non eravamo un granché civili. Fortunatamente questo modo di pensare è stato superato, per cui un errore fragoroso anche da parte di Sarri, però Sarri si è scusato subito, sia privatamente che pubblicamente. Poi Sarri è una persona per bene, non è razzista, non spetta a Mancini dire se deve continuare o meno a stare nel calcio. Il riferimento all'Inghilterra non l'avrei fatto, io non entro nel merito della scelta di Mancini di rendere pubblico l'episodio, perché questo sarebbe un andare a valutare una persona che in un momento di difficoltà come il fine gara e quindi in un momento di tensione si è sentito offeso, quindi l'entità dell'offesa poi varia per noi da momento a momento. Io su questo non ci voglio entrare perché non mi sembra giusto. Spero una cosa, che nel giro di una settimana, quando le cose sono decantate un po', che si finisca con una stretta di mano. Poi che noi allenatori si debba avere un comportamento diverso, e mi dispiace non poter dire prendete il mio modello, perché io ero peggio di loro, quindi questo non lo posso fare. Io volevo essere come leader, ma se dovessi dire uno oggi, io direi cercate nei comportamenti di imitare Carlo Ancelotti, che è più civile. Ma secondo lei, presidente Olivieri, è offesa perché ha detto frocio finocchio, quindi in senso deteriore, gay? No, o se avesse detto gay sarebbe stata un'offesa? Allora, io non mi sarei sentito offeso. Io non mi sarei sentito offeso. Poi, ripeto, è successo anche a me, ma tanti anni fa, e io tanti anni fa risposi in modo sconveniente, che se lo riguardo oggi mi vergogno. Cosa disse? Un collega mi disse in quel modo, io dissi mandami la tua moglie e poi lo domandi a lei. Tipico toscanaccio. Presidente Olivieri, è una brutta roba. Vabbè, però adesso lei lo riconosce. Era nei tempi, allora era così, oggi guai, Presidente Olivieri, un'ultima cosa. All'inizio sembrava che dovesse Sarri avere una sanzione piuttosto pesante, 4 mesi di stop e forse oltre, però leggevo che invece la sua situazione disciplinare potrebbe essere più leggera, meno pesante di quanto sembrasse in un primo momento, perché in realtà lo considererebbero un termine non omofobo per il fatto che Mancini non è gay. Le sembra una giustificazione, le sembra una buona spiegazione questa? Perché se fosse stato gay si doveva offendere di essere gay? Non mi chiaro. No, mi sembra abbastanza stupida questa considerazione. Spero che non sia. Però io ho preso 2 giornate anch'io per aver detto 2 giornate. Avevo apostrofato uno fascista e razzista di merda, poi avevo detto, quindi ero stato così presi 2 giornate. Mi sembrava più grave la mia, non lo so, è difficile valutare la cosa. Ecco. Grazie, buon lavoro, Presidente Olivieri. Arrivederci. Grazie, buona serata. E adesso saluto l'onorevole Laura Coccia, deputata PD, ex campionessa paralimpica, delegata del Partito Democratico per il calcio. Buonasera onorevole Coccia. Buonasera a lei. Coccia, da rappresentante degli italiani e da, non so se tifosa o meno, e data appunto, come dicevo, delegata per il calcio, che commento fa tutta questa faccenda? A me fa riflettere moltissimo il fatto che l'orientamento sessuale possa essere ancora oggetto e motivo di discrimine, al di là del fatto che fosse riferita a una persona effettivamente omosessuale o meno. Mm. Proprio il concetto di prendere l'orientamento sessuale come l'idea o un motivo di insulto in un'altra persona. Senta, il fatto che lei è delegata per il calcio le dà anche, non so, l'autorevolezza, la competenza di intervenire, di dire, insomma, cerchiamo di raddrizzare un po' il tiro o cosa? Beh, io da alcuni mesi, insomma, sto cercando di portare avanti una campagna complessiva contro i pregiudizi e contro gli stereotipi, e in questo senso il fatto di essere anche disabile mi favorisce proprio nel riuscire a mandare alcuni messaggi. Ecco, ad esempio, per quanto riguarda le attività del Parlamento, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne abbiamo organizzato la nazionale femminile delle parlamentari, che racchiude tutti i gruppi politici presenti in Parlamento e anche alcuni esponenti dell'Europarlamento, proprio perché volevamo porre l'attenzione sulle questioni di genere, ma anche essere compatte e unite contro quelli che sono gli stereotipi legati al mondo delle donne e delle atlete. Quindi credo che la politica debba scendere in campo e debba prendere posizioni molto, molto forti, soprattutto quando avvengono questi episodi. So che è un tema rovente, delicatissimo in questi momenti, onorevole Coccia. Non so che strada sta prendendo il disegno di legge Cirinà, se lo vuole dire, perché so che, insomma, siete un po' come PD, non dico nella bufera, ma con grossi conflitti interni. Ma è chiaro che è una posizione molto delicata e io personalmente ho dato oggi la mia adesione alla manifestazione del 23. Quella delle associazioni gay promosessuali. Sì, sì. Personalmente sono assolutamente favorevole all'impianto del DDL Cirinna così com'è, per cui questa ovviamente è la mia posizione personale e so che appunto rappresenta quella di gran parte dei deputati e dei senatori del Partito Democratico. È chiaro che è un tema estremamente delicato, ma sono sicura appunto che alla fine si possa trovare una sintesi che possa tenere, che possa non essere un accordo a ribasso, ecco. Anche perché ci sono di mezzo i diritti dei bambini. Non resta che aspettare quindi il 28 gennaio dovrebbe approdare in aula del Senato. Vediamo cosa succederà. Grazie onorevole Coccia e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora i vostri messaggi. Sebastiano sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito di quello che abbiamo appena parlato, dice: io credo che si stia alzando un polverone per penalizzare l'allenatore del Napoli, stavano in campo un diverbio tra allenatori, questo è il complottismo contro il Napoli. Poi invece vediamo se ritrovo il messaggio di prima. Tutto questo, dice Vincenzo, è servito oggi per riferirsi a modi sfottò agli interisti con l'epiteto di Froci, mentre Davide scrive: Froci è un sinonimo un po' forzato di gay, dov'è il problema? Parliamo di altro, Roberta Giordano, con tanti problemi che ci sono in giro. Vabbè, insomma, non è che sempre un argomento esclude l'altro. Comunque, adesso vi ricordo molto velocemente che le notizie principali del giorno sono il nuovo crollo dei mercati con Milano che è maglia nera, va giù soprattutto affossata dalle banche, giù anche il petrolio, e poi le riforme, passa la riforma costituzionale del Senato al Senato, adesso però per essere definitiva deve passare anche alla Camera. Renzi dice: la politica finalmente riprende il suo posto. Juncker ricuce con Roma, dice: tra me e Renzi solo parole maschie, virili, ma nessuna vera crisi. E poi l'emendamento Cattodemma al disegno di legge Sirinna è una proposta che fanno i cattolici del Partito Democratico per l'utero in affitto che sia reato anche all'estero, una proposta di carcere fino a 12 anni. E poi rischio farmaci nella dichiarazione dei redditi precompilata potrebbe non essere incluso. Poi la clochard che ha partorito, una romena 35enne vicino a San Pietro, il Papa che le offre ospitalità. E poi bufera su Sarri per insulti omofobi a Mancini. Europa 24 notte. Prove d'intesa tra Roma e Bruxelles sui migranti. L'Italia, secondo il Financial Times, potrebbe ottenere regole più favorevoli sul diritto d'asilo. La Commissione europea, infatti, punta a modificare la normativa contenuta nel Trattato di Dublino, cancellando la regola che impone ai profughi di chiedere rifugio nel primo paese europeo raggiunto, che spesso è l'Italia. L'Italia trova ingiusto questo. Una modifica necessaria, dice il presidente della Commissione Juncker, perché il sistema così com'è non funziona. Alessandra Schepisi ne ha parlato con Antonio Villafranca, responsabile dell'Osservatorio Europa dell'ISPI. L'indiscrezione al momento è che è quella appunto di una riforma del sistema di Dublino che prevede che il paese che poi deve procedere a verificare il diritto d'asilo dell'eventuale rifugiato è il paese in cui arriva, e questo, come sappiamo, ovviamente ha comportato un onere eccessivo per l'Italia e soprattutto negli ultimi mesi, l'ultimo anno, per la Grecia. E adesso si pensa invece a un ricollocamento da fare immediatamente, cioè nel momento in cui l'immigrato arriva in Italia o in Grecia viene portato essenzialmente in uno degli hotspot e in quel momento immediatamente si procede al ricollocamento. Questo almeno nelle intenzioni della Commissione, ma purtroppo non credo che la cosa andrà in questi termini, perché vedo già molte levate di scudi da parte di vari stati. Gli stati del nord Europa su quali verrebbe trasferito l'onere? Non soltanto del nord Europa, ad esempio, consideriamo quella che è la situazione attuale. Al momento, escludendo l'Ungheria, si dovrebbero ricollocare tra Italia e Grecia 100.000 migranti. In realtà proprio appunto l'Ungheria, la Slovacchia e altri paesi hanno addito la Corte di Giustizia europea perché sono contrari già a questa decisione che è stata presa del ricollocamento, e lì bisognerà vedere cosa la Corte di Giustizia poi andrà a dire. Ma in ogni caso, di questi 100.000, al momento i paesi operativamente hanno, diciamo, messo a disposizione solo 4.200 posti. Al momento quelli che sono stati concretamente ricollocati tra Italia e Grecia sono 330, di cui la metà di questi 330, grosso modo, sono andati in soli due paesi, Finlandia e Svezia. Quindi il vero problema non è l'accordo, certo importante l'accordo politico dietro, ma l'implementazione, perché se appunto i vari stati non sono convinti di questo progetto e poi mettono una serie di ostacoli tecnici all'implementazione dell'accordo politico. E allora, ecco, è necessario che ci sia una supervisione europea molto forte a partire dagli hotspot e poi nel guardare effettivamente la circolazione dei migranti nei paesi in cui vengono ricollocati, affinché appunto poi operativamente tutto questo possa funzionare. Quindi insomma è prematuro parlare di una rivincita del nostro paese in questo momento di difficoltà. Ma l'interesse italiano è molto chiaro. L'interesse italiano è quello ovviamente che venga rivisto Dublino, ma che al contempo funzionino i ricollocamenti. La cosa che a noi sicuramente va peggio è l'ipotesi di una cancellazione di Schengen, di una chiusura di barriere, di una chiusura delle frontiere, perché a questo punto quelli che arrivano negli inevitabili punti di ingresso europei, che sono principalmente Italia e Grecia, e poi gli altri paesi farebbero una barriera, e quindi lì veramente la situazione potrebbe diventare ingestibile. Quindi è fondamentale per l'Italia che un nuovo accordo appunto si raggiunga e che vengano implementati gli accordi già in essere. Vedremo se andrà in questi termini. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E dopo tutto quello che è successo nella partita di ieri, Napoli-Inter, adesso in Coppa Italia c'è Lazio-Juventus, sui risultati, l'andamento della partita, Dario Ricci ci aggiorna. Dario, come sta andando? Direi che sta succedendo molto molto meno rispetto a ieri. Siamo al 53esimo di gioco, ancora 0-0, pochi istanti fa doppia, grande occasione per la Juventus, in contropiede Morata tutto solo di fronte a Berisha, calciato ma bravissimo il portiere albanese della Lazio a respingere, sul rimpallo si è avventato Zaza che però di destro ha calciato a sua volta incredibilmente fuori. Juventus che prova a alzare il ritmo, la Lazio controlla e prova a pungere quando i bianconeri gliene danno occasione. 54esimo di gioco, Roberta, ancora 0-0 tra Lazio e Juve. Grazie Dario Ricci, e con questo risultato io torno sui vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Dice qualcuno: poveri i nostri figli con questi esempi. Sulla pagina Facebook del programma invece c'è Nino che scrive: l'unica cosa positiva di questa vicenda è che se ne parla e che suscita riflessioni che dimostrano che la società civile è più avanti di chi si trova a dirigere situazioni sportive o politiche in modo inadeguato. E un altro ascoltatore dice: la giustificazione delle possibili sanzioni più leggera, cioè che Mancini non si deve offendere, non è un'offesa omofoba perché non è gay, dice, la giustificazione potrebbe ridurre la punizione a Sarri, si può leggere come se lui avesse dato del negro a un bianco che quindi non si deve offendere. Ma chi lo sa, noi comunque ci risentiamo alle 22.